Europa 24. Quale Parlamento europeo si prepara nei prossimi 5 anni di legislatura? Buongiorno da Sergio Nava. Oggi a Europa 24 andiamo a indagare le priorità degli eurodeputati italiani che siedono alla plenaria di Strasburgo. Ai nostri microfoni Laura Ferrara, eurodeputata del Movimento 5 Stelle e del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, nonché membro delle commissioni giuridica e delle libertà civili, giustizia e affari interni. Laura Ferrara racconta così la sua prima impressione sull'Europa vista dall'interno. Una grandissima macchina burocratica con molti giochi di potere, insomma un grande potere economico, insomma molte procedure burocratiche estremamente farraginose, purtroppo un grande spreco di denaro, anche la sede di Strasburgo ne è proprio comporta dei costi veramente eccessivi per il mantenimento, per cui ecco un po' conferma quella che era l'idea della istituzione europea vista dal di fuori, poi insomma man mano lavorando dentro vedremo un po'. Per quale Europa si batterà in questi 5 anni, anche a livello pratico, concreto, perché c'è stato un forte voto euroscettico alle elezioni europee, voi in un certo senso ne siete state l'espressione a livello italiano, qual è l'Europa cercherà di portare avanti in questi 5 anni? Ma l'abbiamo sempre detto durante la campagna elettorale, noi siamo molto europeisti, ma siamo per un'Europa che non coincide con quella attuale, ecco, siamo per un'Europa diversa, per un'Europa che porta avanti delle politiche economiche, fiscali, finanziarie, insomma differenti da quelle attuali, un'Europa più che altro che coincide con quella voluta dai suoi padri fondatori, per cui una comunità, un'unione di popoli, una collaborazione, una cooperazione, per cui ciò che farò io personalmente, ma come immagino e sono certa tutti i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, è proprio questo, cioè puntare a riavere una reale unione tra i popoli, una comunità più solidale che assicuri la tutela dei diritti fondamentali di tutte le popolazioni dei paesi afferenti all'Unione Europea. Quindi meno Europa o più Europa? Perché è una differenza importante, cioè un'Europa che entra di più nelle questioni concrete, come possono essere i conti pubblici, come può essere l'immigrazione, come può essere l'occupazione, o un'Europa meno stretta? Ma se per più Europa si intende, torno a dire, una maggiore collaborazione, allora possiamo dire più Europa, cioè anche il discorso relativo all'immigrazione, così come relativo, ripeto, alle politiche fiscali, noi siamo per una cooperazione, non per un nazionalismo, ecco, una visione individualista dei paesi, altrimenti ecco, non avrebbe senso parlare di comunità europea. Lei personalmente invece in cosa si impegnerà? Perché poi ognuno di voi entrerà in una commissione, voi siete anche un gruppo, quindi diciamo, è anche più strutturato rispetto ai non iscritti, ha già dei settori in cui intende impegnarsi e in cui intende poi raggiungere anche dei risultati. Guardi, per la mia professione, io sono un avvocato, per i miei studi ho un dottorato di ricerca in teoria e storia dei diritti umani, ho dato la disponibilità per le commissioni più giuridiche, per cui per la commissione giuri e per la commissione libe, che si occupano appunto di giustizia, di affari interni e di libertà civili, per cui mi piacerebbe dare il mio contributo, ecco, in queste due commissioni, commissioni giuridiche ma anche politiche, insomma, che toccheranno delle tematiche delicate. Poi, ecco, il suo personale obiettivo? Il mio personale obiettivo, ecco, mi piacerebbe riuscire ad assicurare veramente la tutela dei diritti umani a tutte le popolazioni afferenti all'Unione Europea, e con questo faccio riferimento al problema del sovraffollamento carcerario piuttosto che alle politiche sull'immigrazione, alla tutela dei dati personali, che per noi insomma è molto importante, considerato che siamo stati definiti, diciamo, come il popolo del web, ma insomma per noi è importante anche il trattamento dei dati, tutte queste cose, per cui mi piacerebbe dare il mio contributo in questo. Su certi dossier potreste anche dare sponda, almeno se vi trovate d'accordo, diciamo, con la linea portata avanti dal semestre italiano. Ma noi, noi non chiudiamo le porte a nessuno, nel senso che noi abbiamo sempre parlato di idee e di progetti concreti, per cui poi sul singolo progetto concreto, nel momento in cui noi lo sposiamo, nel momento in cui coincide con i nostri principi, con la nostra visione, noi non abbiamo dei pregiudizi, cioè al di là di chi li possa portare avanti, se Matteo Renzi avrà delle proposte, dei progetti che coincidono coincidono con una nostra visione in relazione a quella determinata tematica, non vedo perché non appoggiarli, ecco, anche perché poi in Europa funziona così, cioè contano molto i singoli dossier, appunto le singole proposte, non dei programmi. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24, ancora un saluto e un augurio di buona giornata da Sergio Nava. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.